questo era Antinori prima dell'arresto oggi. Mamma. Per un'altra cosa, sì. La storia degli ovuli, cioè sì. Una storia molto grave, non è lo stalking della moglie, per carità, lo stalking della moglie, dai. Ma che è un bel ambiente. Chi è l'avvocato dell'arrestato? Forse l'avete già sentito. Carlo Taormina, il professore, il nostro amico, il professore. L'avvocato più forte del mondo, disse Antinori. Sentiamo. Ma adesso con Taormina, secondo me, qui si rischia di mediatizzare tutto. Taormina è uno dei più forti al mondo, capito? Sì, ma io temo molto per te. Ascolta, fermati, io voglio dormire per un motivo. Se avessi delle colpe, sceglierei uno che lecca alcuni giudici. Comunque, comunque, siccome lui non lecca niente, io sono indegeno. Voglio uno che sia antipatico ai giudici, Davide. Hai capito o no, tu? No, abbiamo capito. Hai capito chi è Taormina? Taormina è il migliore avvocato, perché non lecca alcuno dei giudici. Io non lecco, io voglio la Costituzione, voglio, devo essere punito, vado in galera. Una storia incredibile, dai, una storia incredibile. Io non ho capito un cazzo, ragazzi. L'unica cosa che ho capito è che è accusato di avere praticamente prelevato con violenza degli ovuli da una che non era consenziente. Questo. E questa struttura, questa clinica che è stata praticamente sequestrata. La Mater Dei. No, Matris. Che Mater Dei? Scusami, Matris. Non è Matris. Scusate, Matris. È piena di ovuli congelati. Piena di ovuli congelati. Una clinica con degli ovuli, per dire. La clinica degli orrori. No, questo è qua. Ma così sembra, che ne so io, no? Dici di no. Non lo so io, che ne so. Ma. Allora, ieri il Papa ha tirato fuori questa puttanata delle donne diacono. Ecco, ma immagino, adesso tu è una boiata, diciamo la verità. Una boiata colossale. No, è una boiata. Una svolta epocale. No, ma che svolta chiesa. Epocale? A parte che non ha detto nulla, ha detto forse la commissione ci penseremo. No, possono celebrare nozze e battesimi. No, mi pare molto evidente una cosa: che il Papa se n'è uscito in questo modo per una chiara strategia. Una rivoluzione. Ma no, ma quale rivoluzione? È una rivoluzione. Ma una chiara strategia, quella di. Ha scritto anche Vito Mancuso, quella... che sentiremo, no? Ma sì, sicuro. Quella di mettere a tacere. Quella di mettere a tacere tutto il dibattito sulle coppie gay. Cioè, ce ne usciamo con una cosa progressista che in realtà non esiste, perché non ha detto una mazza. Non ha detto niente. Non ha detto nulla il Papa. Niente. Fanzaga, senti che pensa delle donne. Don Livio Fanzaga. Il Papa infatti ha appena aperto le porte della Chiesa alle donne. Figurate, sono solo le donne che non solo aprono le porte della Chiesa, ma le puliscono pure. Capito, Fanzagone? Le donne aprono le porte della Chiesa, ma le puliscono pure. Mamma mia, personaggio incredibile. Senti, senti Fanzagone ancora, ma immaginate le donne che c'erano per la messa. Senti. A te in fondo piace questo signore? Assolutamente. Qua, questo prete, numero uno, assoluto. Lo considero numero uno, ma veramente lo considero numero uno. Immaginate voi che dicono messa, celebrano i matrimoni, i funerali. Non faccio il nome perché sennò mi processano. Sto zitto. No, ma da un certo punto di vista ha ragione lui. Cioè, dal punto di vista della Chiesa, il fatto che le donne possano celebrare la messa o altre cose è una follia. Ma dal punto di vista della Chiesa è una follia. Allora chiudete tutto. Una volta che ammettete le donne a celebrare. Ma sì, ma dai, su. C'è Don Cruciani, Monsignor Cruciani, ma di che stiamo interviene parlando, nel merito di una. Vabbè, comunque me ne fotto di questa roba qua. Cruciani. Vabbè, sono molto Monsignor preoccupato Cruciani. Per quello che è successo in un quartiere di Roma, al Prenestino, dove due Rom hanno sequestrato e poi stuprato, così sembra naturalmente dai racconti del padre, una ragazza di 26 anni, originaria dell'Albania, che si chiama Besiana Costuri. Ma chi è che mi chiama adesso qua? Ma che ne so, chi ti chiama? Scusa un attimo, fammi capire. Fammi sentire chi questa è? Qua. Ma chi è? Chi è al telefono? Chi è? Tiziana, sono in diretta alla radio, scusami. Ma mandami un messaggino. Ma chi cazzo ti chiama alle 18:45? Sì. Tiziana, ma chi è sta Tiziana? Ma tua moglie lo sa che ti chiama una Tiziana? Cioè, tua moglie lo sa? Aspetta un secondo. Chi è? No, ma cosa stai dicendo? È una collega di fuori onda. Ma perché dici in diretta delle cose? Ma che cazzo zitto ti chiama a fare? E manda gli audio! Zitto e manda gli audio! Ma che ti chiama a fare? Pronto, questa qua? 18:40? Scusami. Sì. No, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Stiamo dicendo, ma chiudi la telefonata, no? Comunque, la ragazza stuprata, Besiana Costuri, che è andata in televisione a raccontare tutto. Guardi, io sto bene, cioè... sto cercando di farmi molta forza per combattere questa situazione che mi è accaduta. L'unico problema è che ho un problema con il sonno. Purtroppo quello ancora non riesco ad arginarlo, perché se non dormo tipo coi coltelli sotto i cuscini e con la porta chiusa 3000 da dentro, tutte queste cose così, non ancora non riesco a dormire, ecco. E mi ha trascinato dentro questa vegetazione, purtroppo, e vabbè. Può immaginarsi purtroppo quello che è successo, che non mi va, vabbè, di ripeterle. Non ci preoccupi. E dopo che ho subito lì una violenza per quasi un'ora, speravo che se ne andasse, insomma, di stare libera, invece no, mi ha preso, mi fa adesso te vieni con me e mi porta dentro questa baracca, in questo campo, che io poi non sapevo neanche dell'esistenza di queste baracche, sinceramente, in 25 anni che abito qua, e dove sono stata rinchiusa per tutta la notte, buttata su un materasso per terra dentro questa baracca, in cui c'era anche un amico suo dopo, e sono stata, diciamo, derisa da queste persone, torturata, toccata, abusata tutta la notte. Allora, la cosa impressionante è che questa ragazza giorni dopo parli così tranquillamente di questa violenza subita. Questo. E la cosa incredibile è che esistono ancora delle zone di Roma dove ci sono dei campi, pare sgomberati, forse no, completamente abbandonati, con le reti strappate, cioè robe da terzo mondo, cioè certo. Esistono zone totalmente franche, incontrollate, certo. E questa è la follia, e nessuno fa un cazzo. Dunque, due rom, possono essere rom, possono anche non essere rom, uguale, non è che gli stupri li fanno solo i rom, due signori rom prendono questa ragazza per strada a mezzanotte, la prendono, la portano dentro, la torturano, la seviziano, certo, per 5 ore, sempre se tutto verrà confermato, naturalmente. Dopodiché questa qua riesce a scappare in maniera incredibile, perché questi si ubriacano, eccetera eccetera eccetera, ma soprattutto la cosa che sconvolge è che esistono delle zone, ma non è che è la prima volta che si sa, ma io ogni volta mi stupisco che ci sono delle zone totalmente fuori controllo, dove nonostante uno può prendere il governo di Alemanna, nonostante il governo di Ignazio Marino, nonostante questo, certo. Più Natania meno Parenzo, più Natania meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Allora ragazzi, come avete sentito prima, con l'arresto del professor Antinori rispunta l'avvocato Carlo Taormina, il professore avvocato Carlo Taormina, suo difensore. Difensore di Antinori, arresto, adesso chissà cosa succede. Io una telefonatina all'avvocato alle 18.49 la farei, che dici, Davide? Ma così per sapere se sa qualcosa, no, ai domiciliari, è giusto. Se le cosa dicono le carte. Proviamo, che con l'arresto così fresco, figurati. Non saprà niente, dici? Ma proviamo, so, dai, proviamo. Vediamo. Sì. Professore? Eccoci, Cruciani, ciao. Dimmi, caro. Senti, ma che è successo? Ma t'hanno arrestato Antinori? Sì, onestamente, non lo so. Ma che è successo? Pazzesco. Ma guarda, stavo aspettando che mi chiamino i carabinieri perché l'hanno arrestato qui a Roma. Adesso vediamo che dobbiamo fare. No, ma ho capito, ma l'accusa è gravissima, no? Beh, l'accusa è quella che è. Adesso vediamo poi come stanno le cose. Cioè, ha rubato ovuli a una paziente. Ma ti arrestano i clienti sotto gli occhi, avvocato. Nessuna notizia precisa, quindi fino a che non c'ho il... Ma non sai niente del perché l'hanno arrestato, sì? No, so che l'hanno arrestato per la questione di questi ovuli che avrebbe estratto senza il consenso della persona, esatto, interessata. Esatto, però sì, come stanno in realtà le cose non posso dire assolutamente nulla. Rapina aggravata e lesioni personali aggravate, queste sembrano i reati, almeno così leggo. Io sto fermo fino a che non leggo le carte. Ma però pazzesco, dai, t'hanno arrestato il cliente, incredibile, così, boom, subito. Ma tu sei proprio un grande stronzo, Davide, guarda, ma veramente no, lo sei. Ma scusa, ma ti ho detto lo che... sei, guarda. Ma non ho capito. Sei un testa di cazzo. No. Ti ho detto che ti hanno arrestato. Ma è un dato di fatto. È un dato di fatto. Ma scusa, ma ogni volta io ho capito, io ogni volta mi incazzo. Ogni volta devi fare sbroccare. Adesso, ultimamente, sei tu che fai sbroccare le persone. Ma volevo parlare col professore. Scusami, ma è una cosa incredibile. Ma scusa, ho detto una cosa falsa? Ma no, hai detto non la realtà, era una per carità. No, non era una critica. Ti ha arrestato il cliente, hai detto. Ti ha arrestato. Ma dai, ma scusa. Ti ha dato della testa di cazzo, che hai detto nell'ordine. Mamma mia, ammazzato. Testa di cazzo. Ha capito perché, però, scusa, è una constatazione. Hai detto, ti hanno arrestato il cliente. Ma era una constatazione, non è che gli ho detto. È stato il cliente, che cosa hanno fatto? Che cosa no, ma nell'ordine, la prima cosa che ti ha detto quella, poi testa di cazzo. Rimando un attimo, che mamma riammazzato, ero tutti a parte, tutti a parte con la domanda. Adesso me la taglio, adesso me la taglio, non ti preoccupare. Era una domanda, poi. Ma ho capito, amico mio, però non puoi subito andare così secco, no? T'hanno arrestato il cliente, subito allora così. Allora cosa pensi di fare? Come pensi di difendere? L'attacco subito, l'attacco, dai. Un banco di criminali. Richiamiamo un attimo. adesso lo richiamiamo, eh. Claudio, Firenze, vai. Porca puttana. Ciao Giuseppe, dai. Ciao Davide. Dimmi, dimmi Claudio, dimmi. Allora, io ti chiamo per la questione musica. Sì, mi hanno rotto i coglioni tutto il giorno con le mail su questa storia dei musicisti. Non ho niente contro i musicisti, ognuno nella vita. Pallino, ancora non l'hai capito. Sì, Pallino, sì, poi rimettiamo pure quella là di ieri sera, quella vecchiaccia maledetta. No, Giovanna, allora, straordinaria. Claudio, io ti straordinaria, naturalmente, però la vecchiaccia maledetta sempre rimane. Allora, Claudio, scusate, non ho nulla contro i musicisti. Uno nella propria vita fa quello che vuole. Può fare la prostituta, il musicista, l'accattone, non mi interessa. Certo. Ma se uno viene mantenuto dal padre, e il padre pubblicamente lo dice, fino a 47 anni, perché parole del padre, il signor Cazzola vuole fare il musicista, amico mio, ma il problema non è che questo vuole fare il musicista, è che questo è un fallito. Vabbè, ma sarà un fallito, ma tu che fai di mestiere? Tu che fai invece di mestiere? Musicista, e da quando ne avevo 16 ho capito. Mi mantengo. Ci sono i tuoi problemi. Che ti rifocillano dietro, sì o no? No, sei parassita dei tuoi genitori, sì o no? E allora, va bene, ma allora per me, scusa, ma come fai? Cioè io non è che attacco te perché fai musicista. Ma non mi interessa, se mia figlia mi dice voglio fare la musicista, bene, secondo me avrai grandi difficoltà, però fai quello che ti pare. Se a 47 anni mi chiedi soldi, ti faccio un culo così. Se a 47 anni mi chiedi soldi, mi permetti di incazzarmi o no? Mi permetti? Sì. Aspetta un attimo, fermo. Pronto? Professore, scusa, David. Ma non ho detto niente. Professore? Ma vabbè, chiuso il discorso, guarda, non c'è nessun problema. Ma quale chiuso? Non ti ho detto niente, ho fatto una constatazione, non è vabbè, che ti ho detto. D'accordo, hai ragione, hai ragione. Ha detto, ti hanno arrestato il cliente. Arrestato il cliente, che devo dire? Hai ragione, adesso sono molto occupato, arrivederci. Ma perché, che succede adesso? Che succede? Una roba incredibile. Vabbè, allora Claudio, non ho capito bene, che succede? No, è chiaro, quello che dice è chiarissimo, sono d'accordo, ma questo il problema è anche il genitore a 47 anni, se mantieni tuo figlio non è che ti puoi lamentare perché fa il musicista, probabilmente, insomma, c'è dell'altro. Vabbè, ma poteva dire musicista come poteva dire attore, regista, tutti i mestieri in cui guadagnare dei soldi e campare è complicato, non c'è dubbio, no? Cioè, anche quello che veniva fuori dalle tue considerazioni di ieri sera sembrava dire... Il musicista è una professione che non merita di esistere. Ma chi l'ha detto? Ma questi sono i dementi che interpretano male le mie parole. Poi ognuno può fare quello che vuole. Ci sono un sacco di messaggi che mi sono arrivati dopo li mando in onda. Sei un coglione, la musica è importante. Ma certo, ma ognuno fa quello che vuole nella vita. Cioè, se uno vuole fare il gigolò, se uno vuole fare il musicista, se uno vuole fare il trombettier, ma va benissimo, non c'è dubbio. Un signore ha detto: io purtroppo mantengo mio figlio ancora con 1500 euro al mese a 47 anni, mio figlio a 47 anni, e insomma non vorrei mantenerlo perché lui vuole fare il musicista, che è evidentemente un mestiere complicato. Dico solo questo, ragazzi, fermi un attimo, ci sentiamo tra poco. Siete il peggio del peggio, fate schifo. Quale sarà il futuro di Milano e di Roma e Torino, Napoli, Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Io penso che Cruciani sia Satana. Satana dai Cruciani e distrugge le famiglie e parla male della Madonna. E quindi c'è questa affinità tra la Zanzara e l'inferno. Allora ragazzi, abbiamo ricevuto una visita, ovviamente l'abbiamo chiamata, non è che ci sono venuti a trovare, naturalmente da Lecco, una famiglia che fra poco vi presento, padre, madre, c'è anche il figlio che non si vuole far vedere, di cognome fanno Squicciarini di Lecco. Famiglia italiana, famiglia un italiana, bello spaccato di Lecco, per raccontare le imprese, come cambia il mondo, bene. Beh, bene, non bene. È quello come cambia il mondo, no. Le imprese, non c'entra niente in questo caso. Adesso le poi ci racconteranno IVA, storie anche legate al territorio. Le partite IVA, no, il territorio. E fanno un'altra cosa che fra poco vi spiegherò. Il motivo per cui ho convocato questa famiglia qui è che vivono da anni con un maiale che si chiama Cesina. È qua, uno straordinario maiale che pesa un maiale in studio. Quasi 100 kg, da quello che mi dicono, quasi 100 kg, un enorme maiale. E adesso poi vi racconto tutto. Prima ma vi dov'è il maiale? Io non lo vedo. È qui, non lo vedi perché non c'è la webcam, non lo vedi. Adesso fra poco lo inquadriamo bene. Perché voglio farmi raccontare come si vive con un enorme maiale in casa. Cioè, come viene trattato, cosa mangia, cosa non mangia, cosa significa vivere con un maiale. Perché hanno deciso di vivere cosa con un maiale? C'è un'inchiesta alla Report. Ma non è che c'entra un'inchiesta alla Report, è un'inchiesta cosa alla Zanzara. Significa vedo delle foto straordinarie perché questa storia è stata raccontata prima che da giornali media italiani, da tre giornali inglesi. Sì. Tre giornali inglesi. Com'è che si chiama questo maiale? Cesira, Cesira. Prima però, alle 19.20, tanto per gradire, sì, voglio farvi ascoltare queste cose incredibili che sono uscite oggi, cioè le intercettazioni di Berlusconi, perché questa è fondamentale. Pazzesco, un conto è leggerle, ma sentirle... Esatto, cioè Berlusconi sostanzialmente ricattato da due signorine che si chiamano Guerra e Sorcinelli, che molti sì di voi avranno sentito ai tempi Sorcinelli, del Bunga Sorcinelli, omen, omen, probabilmente. Però... Beh sì, adesso non fare le solite tue cose, no, che se, niente, di solito sì le faccio io le cose, no? Cioè sì, Sorcinelli, sì, dici Sorca, Sorcinelli, no, eccetera, eccetera. No, no. Non vabbè, ho pensato a quello. Berlusconi sostanzialmente ricattato. Mi scrivono, David, cosa significa vivere con un maiale? Mi scrive la signora Arnaboldi. Ma no, che vuol dire vivere con un maiale? È rimasta dire... colpita. La signora Arnaboldi dice, David, scusa, come un animale domestico. Vivere cioè... con un maiale. No, vivere con un maiale non è vivere con una persona che è un maiale. Significa forse vivere... Ah, no, non c'entra niente, perché... non c'entra niente. È vivere sì con una un maiale che praticamente... vive come un gatto, come un cane dentro casa e viene anche... Smettila, smettila, non fare il mio nome, scrive. Prima ha tentato di mordere Andro, te lo dico subito, si è avvicinato no troppo, sì, Andro si era avvicinato troppo al Andro maiale Mercù e ha cercato di dare una morsicata alla gamba. Sì, Andro, cioè Mercù, sì, Mercù, sì. Coglioni pure al maiale. No, era lì a fare delle foto. Mamma lui si è un po' innervosito, ha fatto attacco. Ma chiama da Ormina subito, attacco vergognoso, gravissimo che un maiale abbia morso Mercù. Cosa allora, adesso gravissima ci raccontano tutto. Prima però le intercettazioni di Berlusconi, ragazzi, e poi parliamo delle cose nostre, del maiale, come si vive con questa famiglia straordinaria, famiglia Squicciarini di Lecco, la famiglia sì Squicciarini. Poi no, racconta... non ho visto questa storia sul Sole 24 Ore però in questi... Beh, ma chi se ne frega? Non c'era, che ci frega giornale noi se è sul Sole 24 strano Ore? Strano che il Sole 24 Alberto Quadrio dovrebbe Curzio... occuparsi di come vivono le famiglie italiane. Strano invece che Alberto Quadrio Curzio non si vabbè sia occupato. Adesso lascia perdere la tua come... ironia. Allora, Berlusconi ricattato da due signorine. La cosa incredibile che sentirete da queste telefonate è il tono con cui appare Berlusconi, che è un tono quasi sottomesso, intimorito. Cioè, queste lo pigliano in giro e lui che fa? Fa finta di non sentire e poi si praticamente si mette a pecorina, cioè adesso non per utilizzare i termini sessuali, ma si appecorona, no? Cioè, come si dice? Cioè, uno normale dovrebbe dire a queste signorine che fra poco sentirete e che hanno registrato tutta la telefonata che poi è stata messa agli atti dei magistrati, io sono Berlusconi, voi siete Sorcinelli e Guerra, ma chi cazzo siete? Ma chi siete? Andate a fare in culo. E invece no! Per motivi che molti di voi dicono e anche noi diciamo, probabilmente questo è sotto scacco, eccetera, praticamente Berlusconi scompare e cede, dice alla fine venite, sì, adesso dico a Spinelli di mandarvi soldi, 50.000 euro a testa, 50 a testa, via! Perché Redelli mi ha detto che di cancellarmi il suo numero perché non lo devo chiamare anche alla Barbara. Ma di... sentire, intanto io ho firmato per Redelli un visto di 160.000 euro per gli arredi della casa di Barbara. 160. No, ma io sto dicendo... Non è casa mia, cioè. Guarda quello che sta scrivendo nella chat per tutti, il discorso che ci eravamo detti l'altra volta che ci siamo visti ad Arcore, ti ricordi? Il dato in benestà è per darvi i soldi per andare in America. Ah, non c'è, no, invece Spinelli dice di no. Cioè, ancora ad oggi... No, no. Sì, ancora ad oggi sto... Blocchiamo subito. Dici... Io sono stanca di essere presa per il culo, sono Barbara, scusami il termine, adesso sono veramente stanca. Ascolta, non è casa mia quella, Silvio, non è casa mia quella, sono in mezzo alla strada ancora, dopo 4 anni di merda, ancora, ma stiamo scherzando, basta basta, devo essere presa per il culo, sono stanca, stanca, stanca, ogni anno siamo dentro così, basta. Sì, ma Spinelli dice sempre, io non ho nulla, non ho l'autorizzazione. Non potete aspettare che ci vediamo da me sabato pomeriggio, per esempio, alle 3 del pomeriggio? No, perché dobbiamo, abbiamo bisogno, noi veniamo anche sabato, ma abbiamo bisogno, Silvio, di questi soldi per bloccare le cose, perché c'è Riccardo che ha già lavorato per noi che aspetta. Però è giovedì, c'è solo un giorno di mezzo che è venerdì. Ci vediamo sabato ad Arcore, magari anche la mattina presto. Sì, ancora per raccontarci barzellette, no? Sabato alle 4, guarda che noi veramente siamo, scusaci il termine, ma siamo nella merda, questa volta. Non abbiamo, possiamo neanche prelevare, non possiamo. nulla, non possiamo neanche prelevare dai nostri conti, Silvio, siamo in queste condizioni. Dopo tutta sta merda, guarda, dopo tutta questa merda. Va bene, allora cosa faccio? Se puoi chiamare subito Spinelli, noi torniamo stasera o domani da lui, ma sarebbe meglio stasera, così già abbiamo un appuntamento con Riccardo, già possiamo andare in agenzia, già possiamo prendere i voli, l'hotel, tutte le cose, avere i soldi anche per vivere. Vediamo oggi pomeriggio Spinelli. Sì, di fare il bonifico e poi ci vediamo, e poi noi veniamo da te sabato e ti veniamo, no, comunque. Vabbè, vabbè, se c'è il bonifico non c'è bisogno di venire. No, veniamo! D'accordo? Lo chiami tu subito? Lo chiamo nel pomeriggio perché adesso non posso. Ma nel pomeriggio lo chiamo subito. E gli dici il bonifico allora, 50-50? Sì, va bene. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. E dopo questa carrellata di Olgentine, ormai è un tema che viene quasi relegato, no? Nelle pagine interne, nelle, sì, pagine roba interne. Vecchia ormai, effettivamente, roba, il cavaliere. Questa roba qui è del giugno 2013, in realtà, 3 anni fa, quando queste qua erano ormai un po' sputtanate e cercavano soldi ancora da Berlusconi. Incredibile, incredibile. Oggi ci fa un effetto diverso, ci fa quasi tristezza, sì. Amarezza, che è un grande uomo, un grande tycoon, come dice lui. No? Eccoci. Ma qui. Comunque il maiale, dov'è il maiale? Ecco, il maiale, scusa. Stupendo, eccolo qui. Cesira, buonasera, signor Squicciarini, buonasera. Buonasera, buonasera. Come si chiama, sì, lei di nome? Giuseppe. Giuseppe Squicciarini. Nome d'arte Ali. Nome d'arte Ali. Perché nome, ma lei ha qualche no, origine medio orientale, no? No, sembra un po' meridionali. Meridionali. Sì. Squicciarelli. Squicciarini. Squicciarini. Ma cosa vuol dire il nome d'arte adesso? No, perché fa l'artista? Che mestiere fa lei? Dipingo, sì. Dipingo, ma guadagna qualcosa o no? Campa, riesce a campare o no? Qualcosa si fa. Qualcosa si fa. Ecco, la signora invece si chiama? Marina. Marina Squicciarini, naturalmente. Marina, no, di che? Marina Squicciarini. Marina, allora, nome Cesira, come vi è venuto in mente di comprare un, sì, maiale? Sì. All'inizio volevate subito farlo diventare un maiale d'affezione, un maiale da casa, sì o no? Sì, prego. Sì, certo. È venuta a me l'idea. Lei voleva un maiale da casa? Sì. Ma perché non un gatto, un cane, un maiale? Mi spieghi? No, un maiale, perché ho visto Babe. Ci siamo tutti innamorati del maialino E volevo un maiale, sì. Ma almeno state in campagna, sì? No, in città. In città. Un appartamento in città? Sì. Con un maiale. Un condominio al quinto piano. A condominio, sì. Io pensavo fosse, sì, no. Un, no, giardino, no, almeno. Al quinto piano, no. Il maiale. E avete comprato, sembra, un maiale. Con tutto il rispetto, io sono, sì, pronto a tutto. In questa trasmissione accade veramente di tutto. Però, con grande calma, le sembra normale avere un maiale in casa? Adesso io però mi devo mettere dalla parte dei signori che sono, no, qui. Ho capito, però. Ma se uno vuole un maiale dentro casa, saranno pure a fare i soldi. Cioè, che vuole per me. No, non è solo il film che le è venuto in mente, Babe, no, che cosa? Ci sarà qualche altro motivo? Boh. Vabbè, ma sono bellissimi i maiali. Dicono che sono anche molto, molto intelligenti. Ecco, per esempio, l'intelligenza di un maiale, del suo maiale, che si, sì, chiama Cesira, da che cosa viene? Allora, mi dimostri una cosa, mi dica una cosa che mi dimostri l'intelligenza, sì, del maiale. Allora, da piccola vedeva il coniglietto che abbiamo in casa, sì, che saltava sul divano. Sì. Si è mangiato poi, no? No, assolutamente. Saltava sul divano. Sì. Logicamente un maiale non può saltare. Sì. Allora, questa cosa le dava molto fastidio. Sì. È riuscita a escogitare un sistema per salire sul divano. Cioè per salire anche lei sul divano. Ha preso un poggiapiedi, l'ha spinto da sola, tutto da sola. Da sola è salita sul poggiapiedi e da lì sul divano. Una cosa pazzesca. Ma, sì, voi il maiale lo mangiate? Noi sì. Ah, mangiate pure il maiale? Sì. Vedi ma che cosa straordinaria. Ma no, quello che c'è. Non questo, è deficiente, Cesira, che sei. No. Sta qua Cesira, che sei impazzito. Cioè, però mangiate tranquillamente la carne del maiale, giusto? L'ho lì. L'ho sempre mangiata. Lei è 9 anni che ce l'abbiamo. Io ho 67 anni, insomma. No, magari da quando ci avete lei non mangiate più il maiale. Invece no, chi se ne frega. Sì, costolette, sì, di maiale, bistecche. No, quando capita. Se non capita. È che... Cioè, non siete di quelli che dice io ho il maiale, no, e allora no, è brutto ammazzare i maiali. No. Cioè, i maiali possono anche morire ed essere ammazzati tranquillamente, o no? Oddio, noi... Visto che è una vita che si ammazza il maiale lo si vede sotto l'aspetto di cibo, eh. Certo, beh, certo. Ovviamente se tenuti e allevati. Vabbè, a regolare. Che è solo? È lui? No. Ma chi è? No, è David, è deficiente di David. Ma come sta Cesira? Perché non fa rumore? Fatelo parlare. È buonissimo. Fate parlare il maiale. Stava per mordere. Tranquillo, nulla. Stava per mordere un nostro collaboratore. Vergogna. Il povero Mercù. Un suo simile. Ma un attimo, vedeva troppa gente intorno. Forse ha riconosciuto in lui un suo simile. Ma... E lo stava per mordere. Ma non il povero Mercù. Fermi tutti, aspetta, torniamo tra un attimo. Fermi, no, con ma è Cesira. Gravissimo, blocca tutto. Chiama la Digos, la Carabinieri. Già sono venuti oggi. Chiama Napoletano, stanno mordendo un nostro, aggredendo un nostro collaboratore. Ma no, dato... un maiale sta aggredendo un nostro ma collaboratore. Ha tirato via un pezzo di jeans, non so che è successo. Aspetta, fermo un attimo, siamo, torniamo fra un secondo con la famiglia Squicciarini e Cesira, il maiale 90 kg, ragazzi, è una cosa impressionante. Io non riesco a capire, ma dove dorme sto maiale, per esempio? Dove dorme? Nella sua cuccia. Ah, la cuccia del maiale, così, sì. Ma va sul divano, fa tutto? No, adesso non sale più sul divano. Sul letto con voi viene ogni tanto? No, prima veniva. No, no. Ogni tanto veniva. Da piccolina. Ah, da piccolina avevate un maiale a letto. Anche. No, a letto no. Però sul divano quando con voi. Guardavamo la, sera... la televisione, così. Stava in braccio, no. Si addormentava. Adesso in non la braccio. Guarda la televisione? No, adesso è fuori nella sua cuccia. Nella sua cuccia, sì, eh? Sì. Ma quanta vita ha un maiale? Quanto può durare ancora? No, per carità, cioè... dai 15 ai 30. Dai 15 ai 30. Una media di 20-22 anni. Fermi tutti. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Pochi minuti fa abbiamo chiamato l'avvocato Carlo Tormina, difensore di Severino Antinori. È finita in questo modo, perché a un certo punto Parenzo gli ha detto: scusi, ma ti hanno arrestato il cliente. Fermati, diceva... però, perché mi segnala, adesso riprendi con questa cosa qui, ma Bianconi, che è un autorevolissimo, come sai, no? Amico deputato, della Zanzara, sì, sì. Mi segnala un maiale, leggo testualmente, caca 20 kg di merda al giorno, chiedigli dove la mettono. Ecco, beh, adesso chiederò tutto, perché da, però mi fai un attimo risentire quello che ti ha detto Tormina. Scusa, prima. Chiedo scusa, certo. Negano comunque che caghi 20 kg di merda al giorno, eh? Cioè negano qui, mi fanno segno così, ma adesso lo diranno in viva voce, lo diranno bene, in viva voce. Beh, insomma, 20 kg sarà un po' di meno, adesso va vedremo. Bene. Intanto Taormina. Ma... però pazzesco, dai, t'hanno arrestato il cliente. Incredibile, così, boom, subito. Ma tu sei proprio un grande stronzo, David, guarda, ma veramente no, lo sei. Ma, scusa, ma tu hai detto lo che... sei, guarda. Ma non ho capito. Sei un testa di cazzo. No. T'ho detto che t'hanno arrestato. Ma è un dato di fatto. È un dato di fatto. È finita in questo modo. Abbiamo con noi la famiglia Squicciarini di Lecco, il signor Giuseppe detto Ali, artista, la signora Marina Casalinga, sempre Squicciarini. Quanto caga questo maiale, signora Marina? Lei come che... una persona. Eh? Come una persona. Cioè? Un po' più di una persona, ma è normale. Non è vero che quello che ha detto il deputato Bianconi? No, evidentemente non ha mai visto cagare un maiale. Deputati, i parlamentari della Repubblica non hanno il senso della realtà, mi sembra chiaro. Cioè, quanto caga? No, quando caga? Ma come una persona normale? Ma sì. Persona, ma no, sì. Ma come una persona non è possibile. Ma è 100 kg, sì. È 400 kg, Le persone 70, 80, 90, 100 kg. Cosa mangia? Cesira, vieni qua, portatemi un attimo sta Cesira. Cesira, non si muove, sta ferma. Eccola qua, Cesira, sono quasi sotto di me. Io ho un terrore. Sì, ho un terrore pazzesco. Prima... ma ti morde? Ecco, ma quanto ha mangiato oggi, per esempio? Ali, dimmi un po' quanto ha mangiato. A mezzogiorno ha mangiato la sua razione, stasera prima di venire. No, ma quanto? Qua, cosa? Cosa? Ah, frutta, verdura. Ma quanto? Quantità enormi? No, no, sono 3 kg al giorno. 3 kg di frutta al giorno? Ecco, sì. Scusi, Manuela Ferri, però mi scrive, dove la fa giustamente la cacca? La signora Ferri, grande autrice televisiva, grande. Dimmi, dove la fa? La fa, chiede. Allora, fuori dalla cuccia. C'è grande interesse, mi pare. Fuori dalla cuccia, sto parlando. Fuori dalla cuccia, ho fatto fare una lettiera da un mio amico. Ma non la chiami cuccia, però. Sì, la cuccia, c'è una cuccia. Ma la cuccia dei cani, ragazzi. Ah, miei, una cuccia un po' più grande. È una cuccia un po' più grande, scusami. Ho capito. Vabbè, allora. Cioè, non è che i cani grandi, per quello. Allora, un maiale di 90 kg, quasi 100 ormai. Oh, cioè, gli ho fatto fare una lettiera bella grande, sì. da un mio amico... falegname? No, che Fabro. E lei lì fa la pipì. Il resto, ma se non la porto giù, non la fa. Ma perché tu la porti anche in giro per la città, così per Lecco? Certo. Ah, per Lecco, così, ma con un maiale in mano. Ma tutte le mattine la porto, tutte le mattine la porto giù. Ma guardi, che io va bene, bisogni lei. Fuori. Sì. Ma io mi ma fuori Cruciani per strada, va a passare per normale, sì. Cose che normale non sono. Normale non, non ci sono, cioè non dite ecco, certo, quello che dice non è normale, ragazzi miei, ma non perché la radio della Confindustria del signor Boccia non c'entra, non è normale girare con un maiale per Lecco, che lo tenerlo in casa, che caga, non è a casa mia non funziona così. Ma a casa mia funziona, no. Perché non ti piacciono i maiali, è la ma signora. Ma non ne puoi far passare per normale, ma no, ma, cose scusa, che normali non tu sono. Tu sai com'è la mia posizione sul mondo animalista estremo, eccetera. Cioè, questi signori dicono: noi mangiamo lo stesso il maiale, ce ne freghiamo di tutte le discussioni sui vegani, non vegani. Non è che siete vegani, no? Lei è vegana, no. Signora? No, lei non è vegano. No. Tutto a posto, mangio maiale lo stesso. Hanno in casa un maiale di 90 kg e lo considerano praticamente un figlio. O sbaglio? Beh, è di famiglia, ci siamo, cioè, affezionati. Come un essere umano. Ci siamo no, adesso esageriamo. Ah, ecco, ci siamo affezionati come un cane, come un gatto. Scusi, mi chiede Manuela Ferri: sì, ancora, quindi che è un cane? Ecco, che ti fai? Quindi? Manuela Ferri dice: quindi è un maiale addestrato? No, assolutamente. No, non è vero. Siccome maiale. L'abbiamo preso piccolo, appena svezzato, Ha vissuto, che razza è? Ha vissuto con noi naturalmente. Che razza è? Senti vietnamita pancia tazza. Che vuol dire vietnamita pancia tazza? Sì, ho visto la pancia pazzesca. È la razza così naturale. Che hanno la pancia sì, grossa, sì. Così. Quel grasso che vedi è suo naturale. Ma tu devi vedere che cosa è questo qua. No, una roba, adesso sta mangiando la sedia. Adesso sta danneggiando la sedia. Ma non sta danneggiando la sedia. Cioè, nell'ordine, è arrivato un maiale nella sede della Radio 24, proprietà Confindustria. Ha attentato alla vita di Andro Mercucci. Ma non è vero. Qualcuno potrebbe dire poco male. Secondo. Terzo, ha dato un morso a Poli, che anche lui. Ma non è vero. Non ha fatto niente. Poveraccio, si sta comportando. Quarto, benissimo. Morde una sedia, cespite di questa straordinaria azienda, e per Cruciani è normale. E dice: scusi, ma dove lo porta? A passeggio per Lecco. Ragazzi miei, siamo fuori di testa ormai. Non ci sei più una quanto regola. Quanto vi costa, Marina? Quanto vi costa? Lei che tiene in ordine i conti? Ma più o meno sui 30 euro alla settimana. Vabbè, 30 euro a settimana. Sì, beh, insomma, però, 30 euro a settimana, sì, più 120 o meno, al mese. Comunque. Senti, ma mi dite, come alla fine la sensazione di avere in casa una cioè, quanto si muove questo qua in casa? Quanto ma si muove? È tranquillissima. Sta sempre fermo. Lei sta, ma anche quando era più piccola, che sì. Stava in casa, stava sul tappeto, si stende perché dorme molto il maiale. Dorme molto. Vabbè, ormai è praticamente arrivano degli ospiti, uno trova il maiale sul tappeto e sarà normale. Perché ragazzi no, miei. Certo. E che dicono gli ospiti quando vengono? Si adeguano al maiale. Certo. No, cioè, vuol venire a cena a casa mia? Ah, sì, prego, onorevole, venga, trova il maiale sul tappeto. Ma perché ma dai, onorevole? Uno con ma anche onorevole, prego Cruciani, oppure prego Napoletano, vieni a casa mia. Va bene, d'accordo, vengo, fate prego. C'ho un maiale di 90 kg, che si chiama Cesì. Una bella porta e trova il maiale lì disteso. Non è normale, ragazzi miei. Non mi convince. A casa nostra sì. Signora Marina, scusi un attimo, ma voi vi aspettavate che crescesse così fino a 90 kg? No, così tanto no, perché quando l'abbiamo comprata ci hanno detto al massimo 20-30 kg. Ah, e poi 90 kg è una tragedia. È arrivato a 100 kg. Vabbè, cara famiglia Squicciarini, io vi saluto, vi ringrazio. Cesira è qui, che si aggira ormai praticamente, è diventata di casa, fra poco si adegua, resta qui. Sarebbe bello trasmettere ogni giorno con un maiale di 90 kg dietro che si aggira tanto. Così, no? Che dici? Grazie perché Marina! Perché non l'avete chiamato grazie. Mauro come Mauro da Mantova? Ma che c'entra Mauro da Mantova adesso? Chiamarlo Mauro come Mauro da Mantova. Ciao. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a provincia di Milano. Andrea, vai. Ciao, Crucia. Pronto, mi senti? Pronto? Sì, ti sento, vai. Ah, ascolta, volevo chiedere un'informazione. Dimmi. Ma Annarella, che fine ha fatto? Annarella, sai che è un pensiero che ho avuto? Buona domanda. Annarella, che fine ha fatto? Non vorrei disturbarla a casa, ho paura quasi di chiamarla perché non stava molto bene. Non stava molto bene di recente, lo so, amico mio. Sarebbe stato importante sentire la voce di Annarella per le elezioni, diciamo, no? In occasione delle elezioni di Roma. Effettivamente, il fatto che non si senta, insomma, è un problema. Certamente potrebbe essere un problema. Fammi avere notizie. Io vi seguo tutte le sere. Vabbè, allora vuoi sapere solo questo? Vuoi sapere? Sì, mi dispiace perché è una compagna, gli voglio troppo bene. Una compagna, che vuol dire una compagna? Spiegami. Faccia il martello, comunista. Vabbè, faccia il martello, comunista adesso. Cioè, sì, era comunista, per carità. Vabbè, ho capito, ma non è. Siamo come. Facciamo parte dell'UNESCO oramai, non è che siamo democristiani con Renzi. Sì, lo so che fate parte dell'UNESCO, ormai siete una specie di specie in via d'estinzione, insomma. Panda. Ciao, Ettore, provincia di Milano, vai, Ettore. Cruciani, ciao, dimmi. Sono il tuo grande amico. Senti, ti devo parlare di una cosa di Antinori. Dimmi. Io ho caricato Antinori con la sua Maserati per portarlo a Bergamo. Io sono un tassista. Sì. L'ho portato, andava come un pazzo, Poi l'ho lasciato lì a Bergamo, sono tornato indietro col suo Maserati. Sì. L'ho portato in garage dell'hotel, sì. E non mi ha pagato. Cosa devo fare? Beh, amico mio, questo è un problema. No, aspetta, questo qua è però un problema serio. Ettore sta dicendo che è un tassista, ma un tassista di come? Quelli con la vettura normale? No, oppure... tassista regolare. Ho lasciato lì il mio taxi e ho portato lui. A Bergamo? A Bergamo. Da Bergamo a Milano? No, da Milano a Bergamo. Da Milano poi a Bergamo. Sono tornato indietro da Bergamo a Milano a portare indietro la sua macchina. No, non ho capito, scusa. Hai portato Antinori? Allora, spiego. Io ero fermo all'hotel. Sì. È venuto fuori che, lui, che hotel? Il solito, il Principe di Savoia, là. Bravo, dove va sempre lui. Sì. È uscito lui e mi ha detto, dobbiamo andare a Bergamo con la mia macchina. Lascia qua il tuo taxi, andiamo a Bergamo, a Orio Serio. Mm. Poi dopo tu mi riporti la macchina qua al Principe Savoia. Mm. Poi martedì, quando torno, ti pago. Sì. Io ho fatto tutto il servizio. Ho perso 4, 5, anche 6 ore e non l'ho più visto. Adesso ma non lo sappiamo se è vero. Amico mio, che non lo so, sappiamo in questi vero, casi... può essere una diffamazione bella e buona. No, ma può essere una diffamazione. No, adesso, ma voglio sì. Dire, siccome che tu hai avuto anche delle discussioni con lui, che l'avevo sentito, sì. Ho detto, adesso chiamo Cruciani e glielo dico. A me non me ne frega, cioè i soldi me li deve dare, perché sennò viene fuori un casino e questo te lo dico io. Hai capito? No, tanto per dirti che personaggio è. Ma, no, per carità. Cioè, che ne sappiamo se è vero quel che lei dice. Vabbè, ma se questo lo chiama... Allora, Parenzo... Tu mi hai già rotto i coglioni, perché io dico la verità. No, ma perché scusi, io con te caro, non voglio neanche parlare. Scusi, anche se sono stato scusi, in televisione ascoltatore con te. Cesiro, scusi un secondo. No, Cesiro, ma... un cazzo. Voglio... Non io si arrabbi. Se ti chiamo, dico la verità. Non si arrabbi, non si arrabbi, non si alteri. Che... Non si alteri, no. Andiamo avanti con calma, procediamo. No, ma ha ragione Ettore, lo sta insultando, lo sta insultando. Ma tu ragioniamo. Sei una testa di cazzo. Tu no, sei no, una... senza usare questo linguaggio aggressivo, violento e volgare. Allora, primo, lei chiama... Dice qua. Di essere un sedicente tassista. Dice sì. Di aver portato Antinori con una Maserati che poi gliela è riportata lì in albergo. Attacco, dice che non l'ha pagata. Ettore, vai all'attacco. Come facciamo noi Ettore, a verificare che quel che lei dice è vero? Come facciamo noi a verificarlo? Io ci credo, io ci credo. Perché allora, io sollevo un dubbio legittimo. Ti chiamo per dirci le balle? No, ma scusi, io sollevo un vai dubbio all'attacco, che è legittimo. Ettore, non mollare la preda. Non ma mollare allora, la preda. Parezzo, io sono stato anche a processo con te per la storia di Stasi. Pure. Poi ti ho telefonato che mi hanno rotto il vetro dalla macchina e ti ho detto come che se processo, prendevo l'altro non ho capito di cosa sta parlando. Quale? Calma un attimo. Quale no, processo vabbè, se non ci interessa Stasi? Questa roba qua, sono affari vostri. No, ma non riesco a capire, fa diffamazione. Non mi interessa, gratuite. No, non sta dicendo nulla, non sta diffamato. Non sta dicendo nulla, voglio capire cosa sta dicendo. Ettore, scusami. Non ho capito, perché non ti crede Parenzo? Dimmi, perché non ti crede? Perché è una testa di cazzo, lui non crede mai nessuno, difendi no, Rom. No, non è che non crede mai nessuno, io dico che difendi se uno Rom, qualunque zingari, telefona, capito? Uno qualunque che telefona, e io, oh, ok, allora no, ieri Cruciani l'ho visto con un trans. Sono un tassista, testa di cazzo, e io l'ho visto ieri, come si chiama questo qua? Come si chiama questo? Ettore, ho visto Ettore ieri con due transessuali a Milano. Ma questa è diffamazione pure. No, l'ho visto a Quarto Giaro. Mi no, sembrava lui. Ettore, di qualcosa. Senti una cosa, mi sembrava lui. Che io ti denuncio, c'è un avvocato che ti fa i coglioni. Mi sembrava lui. Mi sembrava Ettore. Poi non so bene, ma insomma, lei guida allora, il taxi. Lei guida il taxi. Giù, io ho visto un taxi a Quarto Giaro. Ho visto un taxi a Quarto Giaro. È molto agitato però Ettore. Allora stai attento a parlare che io ho messo solo in dubbio il fatto che non è che uno chiama e dice e fa una ma perché non dobbiamo grave. Crederci? Scusi, perché io ci credo. Non abbiamo Ettore. Riscontri per poter dire se ma io è vero credo o no. La parola di Ettore. Ma io ho anche le prove. Testa di cazzo che non sei altro. No, ma intanto smettiamola di dire testa di cazzo perché no, altrimenti le scatena il maiale che è in studio. Primo. Tu sei peggio. Secondo, alla prossima testa di cazzo lei il taxi non lo vede più perché lo sequestriamo per diffamazione. Ma che c'entra diffamazione? Mo' detto tutto in tribunale. Comincia ad andare in giro con il carrettino e col cavallo oppure a bordo del il maiale. Tutti va in giro col capito? Attacchi, attacchi al maiale lì, Gigio, come si chiama? Cesiro, lì attacchi un carretto a Cesiro e cominci ad andare in giro, metti il tassametro sul maiale. Guarda, se guarda che quello che mi hai detto di quarto giaro la paghi cara, perché io ce lo dirò al mio avvocato. Non è che andare a trans sia una... Ma io dico che mi è sembrato, mi è sembrato di vedere... Io non ci vado né a trans né a puttane. Mi è sembrato di vedere un taxi, ho capito, ma non è una... quarto giaro, mi è sembrato... Ma non no, ma non puoi dire mi è sembrato di ma vedere no, un taxi, non lo so, scusami. Mi è sembrato di vedere... No, adesso cambi le carte, hai detto che mi hai io visto faccio come fa due lei. Sessuali. Io questa faccio come fa lei, cioè siccome le cose non hanno un riscontro, le ho fatto notare che non può chiamare e dire cose che non hanno un riscontro, perché altrimenti ci denunciano per diffamazione e ma io parlo solo di cose che so, quando vuoi, capito? Che di cazzo che non sei altro. E avanti ancora, dica addio al taxi. Dica addio al taxi. No, ma ragazzi, su, ma non diciamo dica cose, ma che taxi. C'entra il addio al taxi perché ti ha dato la testa di cazzo, querelo, dai, per diffamazione, ma certo. Che quereli, basta. Ma per ingiuria. Ma mi devi querelare, ma per ingiuria guarda come querelo. Mi devi lo querelare. Per ingiuria. Stiamo per tremando, ingiuria. Stiamo tremando. Per dai, ingiuria, dai, su. Ettore, dimmi una roba. Scusa, perché ti ha detto che vai con transessuali? C'è qualche sospetto? Allora, io ho 74 anni, non sono mai andato con nessun transessuale in vita mia. Vabbè, ma non è un adesso, delitto. Ma adesso Parenzo, questa frase qua che è registrata me la paga cara. Sì, te lo ho dico capito, io. Però Ettore... Certo, anche la sua è registrata di frase, certo. Sì. Ettore, sì, scusami. Anche la sua diffamazione su Antinori, se non è vera, è registrata. Ma no, ma quello sarà... Ah, se non è vero. Che e prove come si hai? Fa a dimostrare? Che prove hai che Antinori non ti ha pagato tanto? Che prove tanti? Ha? Quando, te lo dico, quando vai al principe te lo dicono. No, ma quale principe? Scusi, lei chiama in diretta radiofonica una no, trasmissione ragione, molto ascoltata. Ha ragione Ettore, ha ragione. No, no, ma scusami, ma ha ragione un cazzo. Lei chiama in diretta una trasmissione. Perché non noi vuoi credere siamo Ettore? Qui, non abbiamo perché strumenti non vuoi credere per dire... Ettore? Scusami, non abbiamo ma strumenti... Ma tu mi puoi dire, io ancora. Non ti credo, ma non mi devi dire che io sono andato a transessuali a quarto ma, giorno. Ma non è un delitto, non è un delitto andare a transessuali. E ho usato lo stesso metodo suo, cioè ho detto una cosa che non è comprovata, perché noi non abbiamo nessuno strumento per dire che lei ha ragione, se non la sua parola. Allora le chiedo, che prove ha per dire che il signor Antinori non le ha pagato una corsa di taxi? Ha quando delle vuoi, prove o no? Quando vuoi le prove. Va bene. Ma non a me, lo deve dire anche alle persone che ha chiamato. Ciao. Perché lei ha coinvolto 2 milioni di persone che ci stanno ascoltando. Ettore, mandalo a fare in culo, dai, Ettore, mandalo a fare in culo. Ti mando a fare in culo, Parenzo sì, del allora cazzo. Dica addio al taxi. Ciao, bene, ciao, addio ciao. Taxi. Ma perché? E trovarsi un altro dai, lavoro. Ciao. Dai, troverà un altro ma lavoro. Vai, com'è. Smettila. Pagherà fino all'ultimo. Vittorio, provincia di Catania, vai. Sì, Luciano, ciao, ti saluto te, Parenzo. Dimmi. Povera Cesira, penso, perché abbinarla a un maiale, se non mi sbaglio, Cesira, forse è un personaggio di un film di Fellini, ma povera Cesira. Comunque. Vabbè, ma che c'entra? Perché il maiale è un nome, fatto, è un nome bene, qualsiasi, siccome, no? Siccome al maiale hanno dato del Cesira, cioè gli hanno affibbiato, abbinato un nome con Cesira. Vabbè, io ricordo che Cesira era un personaggio di Fellini, ma non so se era la certo, sua compagna. Assolutamente. Ascolta, Luciano, io non mi aspetto da te di risolvere un problema, una risposta. Purtroppo. O sono anche nello stesso tempo contento, sono costretto ad ascoltarti anche la notte, perché mio figlio, che è un duopatito da un anno a questa parte, mi ha coinvolto e sono obbligato, costretto ad ascoltarti, devo dire, perché? Perché lui, siccome non ti può sentire la sera quando trasmette, registra e l'ascolta di notte. Vabbè, dunque? Lui dorme nella stanza appresso e io ti ascolto anche la notte. Detto questo, ascolta, lo sai perché chiamo? Io chiamo poco fa, proprio ho acceso la radio in quel momento, ti ho sentito parlare a proposito di un giovane di 47 anni che ancora sta con i genitori o qualcosa del genere. Allora? Io ho questo problema, io ho 70 anni, ascolta. Sì. Mio figlio ha 40 anni. Sì. Questo ragazzo disperatamente cerca di crearsi un futuro, è fidanzato con una bravissima ragazza da alcuni anni, vorrebbero crearsi un futuro. Tu dici, allora perché mi cane? Quello che voglio dire... Cioè, non capito, a 40 anni sta ancora a casa? Ecco, lo sapevo, diceva questo. A 40 anni sta a casa tua e che cosa paghi? Tutto tu? Ora ascolta, lo so che può sembrare strano, ma dimmi un po', quando tu guardi tuo figlio, tua figlia, lo guardi negli occhi, lo vedi, con quale coraggio puoi dirgli tu te ne devi andare quando vedi che quel giovane disperatamente cerca di inserirsi nella società? Ora ascoltami, non è che noi siamo... Amico mio, il problema è che se uno dà sempre una possibilità, se dà sempre quattrino, non dico che deve stare alla fame questo qua, però se gli dai sempre i soldi per mantenersi, questo alla fine è comodo e non fa una mazza, scusami, questo è anche il punto. A un certo punto bisogna smettere di rifocillare le persone, bisogna smettere, bisogna dare il minimo indispensabile, poi devono fare da soli, perché altrimenti non si finisce più. Fermi tutti. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. La Zanzara. Sei un parassita, tu sei un parassita. Non ha fatta mai un cazzo in Davide Toia. Prendi uno stipendio, prendi una pensione. Sei un parassita, hai capito? Impiccati, coglione. Ma chi era questo? Cruciani, sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda, hai capito? No, sei un pezzo di merda venduto e corrotto. Sì. Fai questo lavoro e te la fai mettere in culo da quelli che ti pagano. Sì. Coglione di merda. Sì, sì. Anzi, quasi quasi che pare sì. mi sta simpatico. Sì. Coglione fottuto, sì. pezzo sì, di sì, merda. Sì, sì, ma non ti preoccupare, adesso poi arriviamo pure a te, non ti preoccupare, arriviamo a te, non ti preoccupare. Adesso ci arriviamo anche a te. Adesso ci arriviamo. Ma scusami, non vogliamo dedicare neanche una parola su queste guerre stellari in corso del Movimento 5 Stelle? No, non ci interessa. Ma cosa vuoi dire sul Movimento 5 Stelle? Tu dici la questione no, di, la di sospensione Pizzarotti. Di Pizzarotti, pubblica le mail con lo staff di Grillo, Nogarin che invece rimane al suo posto, il sindaco di Livorno. Sì, capisco che non gliene frega nessuno, che nessuno sa no, chi diciamo, è Pizzarotti, sindaco di Parma. Possiamo dire che sono casi diversi. Però è anche vero che loro non vanno mai troppo per il sottile quando si tratta degli altri. Appunto. Adesso invece fanno i distinguo. No, diciamo così, Pizzarotti stava sulle balle. Assolutamente, ai perché era un po' più indipendente. Era eterodosso, era fuori dalla linea, eccetera. Adesso, per un avviso di garanzia... Sì, sulla nomina del direttore sì, del teatro. Sì, ma adesso deve stare il merito. Avviso di garanzia lui, avviso di garanzia Nogarin. Sì. Nogarin sì. niente, lui viene fatto viene di fatto sospeso con una mail dal blog sì, di Grillo. Sì, è un po' diverso, sì. è un po', no? È un po' bizzarro, sì, è un po' bizzarro. Tu dici che gliene frega niente nessuno, no. torniamo dal maiale. È roba di no, il maiale è andato via. Cesira è andata via. Il maiale, chi c'è? Mauro Davanti. No. Avanti. No, no, no, no. C'è come al solito la straordinaria rubrica, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Tu hai venuto anche la Boschia a Novara, quel cesso. Come cesso? Ma è bellissima, è una bellissima fighettina, scusa. La devo portare in un ristorante a Rutto Libero, la Boschi, e sto aspettando che accetti l'invito, capisci? Ma buttala dentro un fiume, ma cosa la porti a mangiare quella lì che già la paghiamo, la manteniamo quella lì? E restituisca i soldi che ha rubato. Allora, la Boschi nell'ordine, hanno detto, la Boschi è un cesso. Varin, il conduttore, ha detto una fighettina, no? Una bellissima fighettina, sì. La vorrei portare in un ristorante a Rutto Libero. Una cloaca con la trasmissione. Libertà. Dico, invece di continuare a cogliere, ma perché non fermano le guerre là? Allora è vero che è un disegno di sti massoni che ci vogliono infettare. Io dico, guarda, ci vogliono infettare. Succederà qualcosa di più grosso. Servi di Roma fuori. Senti questo. Qualche passo del Talmud. I giudei sono esseri umani, le altre persone del mondo non sono esseri umani, ma bestie. Altra frase. Nonostante le persone nel mondo somiglino esteriormente ai giudei, loro sono in effetti solo come scimmie paragonate agli uomini. Ah, delirante. Gente delirante. Caccia oltre il fiume. Il potere falso che ci spreme sfonda il muro di onnipotenza Vuoi vedere che la prossima conferenza stampa che fa la Boschi la farà di fianco a un negrone? E dirà: anche io ho ospitato un profugo. E voilà, eccolo qua, un bel negrone, bello tosto, ben vestito. Padania bella e libera. Sono quei negretti magrissimi scheletrici che vediamo alla televisione che dovremmo aiutare, e non i negroni vestiti bene che vengono, scendono dalla nave, si fanno il selfie sul barcone, cazzo, ma non rischiano mica di affogare, si fanno pure il selfie. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. No, io preferisco, guarda, preferisco l'Italia, però senza i negri di merda. Non se ne frega niente, il colore della pelle, sono tutte cacchiate. L'importante è che tu sia gay, perché se oggi non sei gay, signori, non sei niente, non sei friendly, non sei moda. Guarda oltre i monti. Non per... Questi qui come li chiami gay? Devi dire culatoni, se no non capiscono, capisci? A chi ti vuol fermare? Il provvedimento che è stato approvato ieri dogana i matrimoni poligamici, giusto? La poligamia. Tu pensa a tutti i ciabattanti che staranno festeggiando in questo momento, che potranno prendersi 2, 3, 4 mogli, e sarà tutto pagato, perché naturalmente avranno la reversibilità o tutto quello che vuoi, gli assegni familiari per 2, 3, 4 mogli e 4, 5, 6, 10 figli. Avete capito, no? Qual è il futuro disegnato da questo ascoltatore di Radio Padania? Io penso davvero che l'animo umano, vabbè, non può arrivare, non chiusura può arrivare di Varin, chiusura in bellezza c'è di anche Varin, la chiusura. Chiusura. Ho capito. Bei tempi quando dopo le 11 di sera trasmettevano tutti questi filmettini divertentissimi dove veniva pronunciata la parola frocio. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Natania bella e libera, guarda avanti. Cioè, capito? Ti pigliano pure per il culo, capito? Questo è simpatico. Ti pigliano pure per il culo. Questo è simpatico. Farà una brutta fine, ma è simpatico. Giuliano D'Arieti, vai. Giuliano, dimmi. Volevo aggiungere un contributo all'impiedio seduto. La faccio seduto perché i sanitari la pipì. Li lavo io. La pipì. Sì. Sì, sì, sì. Sei rimasto al discorso sulla pipì e i sanitari, sì. Vabbè, volevo aggiungere da parecchio tempo questo contributo. Che vuoi aggiungere? Dimmi, che la fai come? La faccio seduto, beh, quando lo trovo pulito, per rispetto di chi l'ha pulito, ma soprattutto perché principalmente li pulisco io a casa mia. E il fatto che stai solo ti porta a dire io faccio... No, a prescindere, c'ho tutta la famiglia con me, a prescindere. Non ho capito, la fai da seduto comunque. Ragazzi, sì, ma se a voi piace fare la pipì da seduti, ma affari vostri, io la pipì non la è un faccio fatto di piacere, io la faccio in piedi, punto. È un fatto di utilità, non ma non me ne frega niente, io sporco anche un po' la cosa, chi se ne frega, prendo la carta igienica e pulisco. No, la carta poi c'è un tizio che viene pulire, ma quello che è, vabbè, è spargere e spalmare, no? Io l'ho sempre fatta, ma ho capito, non contesto la tua, per l'amor del cielo, volevo giusto aggiungerti questo contributo. Vabbè, ciao Giuliano, ciao. Abbiamo, caro David, al telefono Vladimir Kosturi. Vladimir, sì. Kosturi è il padre di, come si chiama sua figlia, Vladimir? Besiana, che qualche giorno fa è stata, sì, nel quartiere Prenestino di Roma, violentata da due uomini di etnia Rom, e poi ha raccontato giorni dopo quello che è successo. Vladimir, ci può raccontare esattamente la dinamica di quello che è accaduto innanzitutto? Praticamente circa una settimana fa, no? Sì. Lei era andata da una sua amica, perché lo frequenta spesso, perché abita vicino a noi. Sì. Che sono circa 300 metri di distanza. Dove di stiamo distanza. Parlando di che cosa? Di quartiere Prenestino? Quartiere Prenestino. Via? Vicino al Largo Preneste. Vicino al Largo Preneste. Via Teano. Questo è successo in Via Teano. La strada è praticamente non è molto illuminata. Sì. E non è abitata. C'era un campo Rom? Non c'è abitazione. Da una parte ci sono dei campi sportivi. Sì. e dall'altra parte c'è un campo grosso, grossissimo, è troppo selvaggio come campo, sì. Selvaggio, abusivo, sì. Incontrollato praticamente il campo, e non si capisce chi entra e chi esce. Che ore erano? Era circa mezzanotte, stava da una sua amica, no? Sì. E ha fatto tardi, si vede, hanno chiacchierato, è stato un po' insieme. Non è venuto quella sera a casa. Quando ti ha raccontato di essere stata stuprata? Dopo 4 giorni era in presenza di un altro amico, io. Sì. Che mi diceva, poi piano piano, poi diceva, io ho detto, ma raccontami com'è la verità, no? Sì. Raccontami un po' bene. Sì. Ho detto, sì, ma sì, io ho detto, ma tu ti hanno fatto entrare dentro quel campo abusivo? Ho detto, vabbè, ho detto, però un'ora così, come un'ora? Un'ora è poco, ho detto. Poi dopo ho saputo che non era un'ora, erano 5 ore. Io in questo campo da 20 anni che abito qui non ero mai entrato, purtroppo sono entrato questa brutta, diciamo, occasione. Sì. Se entri dentro, guarda, io non capisco come, se entra un uomo dentro, sì, io penso che si impaurisce. Cioè, perché? Un uomo, che cosa forte, c'è? Che cosa c'è? Cosa hai visto? È uno schifo. Dentro, se tu vieni dentro questo campo, è uno schifo, ma non puoi. Per esempio, cosa c'è? Cosa c'è? Ma è troppo grosso, è troppo grande, ma è tutte sporcizie, tutte. Non è selvaggio naturale, capite? Ma è selvaggio di città sporca. Di sporco. Sì, ho capito. Una cosa degradata al massimo, capito? Sì, dentro. Sì. Io ieri sono entrato. Insomma, non ho capito, l'hanno tenuta dentro per allora, sì. L'hanno preso con forza. Cioè, questo uomo sì. si era nascosto. Lei camminava, questo uomo stava davanti, lo prende con forza con i capelli. Tanto è vero che i carabinieri poi... E hanno trovato anche i capelli di mia figlia nella rete. L'ha tenuto per un'ora vicino al cancello. Sì. E poi dopo non è rimasto soddisfatto di quello. Mia figlia pensava, cioè, lì all'inizio ha urlato, però lì se urli non è che ti sente qualcuno. Ma questo qua l'ha violentata? Questo qua? Sì, sì, prima, sì. Cioè, ma l'ha violentata in maniera pesante? La violenza le più estreme che esistono, praticamente. Le più estreme? Le più estreme che si possono immaginare. Ok, d'accordo. Lei sta facendo... sta facendo la cura anti-AIDS adesso. Eh beh, certo, per forza. Quindi, per forza. Dopo un'ora pensava che era salva. Sì. Invece lui l'ha portato in baracca. Sì. Una baracca che, guarda, che fa schifo. Ma beh, schifo che neanche nei film lo vedi. E lì nella baracca c'era anche un altro suo amico. Sì. L'hanno tenuto per 4-5 ore lì. Sempre oltre a un'ora. Altra violenza? Sì, altre violenze là. Poi bevevano, si ubriacavano lì dentro, parlavano in lingua romena perché non metà italiano, come dice lei. Lei, sfruttando che erano ubriachi, li ha convinti di uscire fuori parco per prendere un caffè. Per favore, facciamo un giro. Sì. Così, va bene, sono vostro amico, io non so cosa gli ha detto. Cioè, sono usciti al parco, c'è un bar vicino per sì. prendere un caffè. Lì lui è entrato, si è distratto, lei si è messa a correre, 5:30 di mattina, ha attraversato la strada veloce, rischiando di essere investita, correva, lui gli correva dietro, e lei trova una macchina al semaforo, ferma e apre da sola lo sportello posteriore. Sì. Entra in macchina, si entra in macchina, c'era... di un signore, lui per fortuna, cioè, non era come questi psicopatici. Sì. Cioè, e dopo hanno chiamato la polizia. Lui subito lui andava al lavoro, ha lasciato, cioè non è andato al lavoro, ma è andato dai carabinieri. I carabinieri sono intervenuti subito, sì, cioè immediatamente, e hanno trovato il secondario, però, quell'aiutante. L'aiutante, l'altro è scappato. L'hanno trovato nella baracca e l'hanno arrestato. Sono due rom questi qua? E stanno due rom rumeni. Sì. Due rom rumeni. E stanno cercando l'altro. È possibile che tu non sei stato avvertito subito e non ti sei subito accertato? No, non mi hanno avvertito, i carabinieri insistevano a mia figlia che chiamiamo tuo padre. E mia figlia diceva no, non chiamate mio padre perché non lo voglio disturbare. Se tu avessi di fronte quello che ha stuprato tua figlia, no? Quelli che hanno soldi, cosa faresti? Io lo voglio in ergastolo, praticamente. Dico di ucciderlo, ma voglio ergastolo per lui. E combatterò tutta la vita, capito? Combatterò tutta la vita. O lui fa l'ergastolo, che la gente qui deve capire. Sì. E chi fa queste cose non deve vivere tra noi, capito? E non merita di vivere tra noi. Ergastolo. Sì, non la pena di morte, però. Non la pena di morte. Ma guarda, la pena di morte, io non sono per la pena di morte. Ma se tu avessi di fronte a te, da solo, nella stessa stanza, non voglio averlo da fronte, ti giuro. Però non lo so la reazione mia, capito? C'ho paura che poi non parliamo più al telefono. No, ma certo. Hai capito? Cioè, praticamente la mia vita è cambiata molto dopo questo. Ma gli stupratori, secondo te, devono essere castrati? Perché no? Perché no, scusa? Però questi non meritano di essere uomini. Cioè, castrati, perché no? Perché no? Senti, tu castrati. A Roma... Questi non sono... Questi sono... Non puoi mettere un nome a queste persone, capito? Non delle bestie, delle bestie. Perché tua figlia ha deciso di andare in televisione? Cioè, una ragazza stuprata da qualche giorno che va in televisione a raccontare la sua storia. Io con mia figlia ho detto, scusa, se la senti, tu riesci a affrontare di parlarla pubblicamente questa, anche se la privacy tua non c'è più. Papà, se la gente lo deve sapere, perché no? Ah, per questo. Perché l'aggressore, cioè il criminale, è ancora libero, cioè ancora non è arrestato, quindi la macchina si deve mettere in moto, arrestarlo. Sì. Se tu li tieni in silenzio, non è il silenzio, è un tipo di suicidio. Adesso come sta? Lì è un carattere, ha un carattere fortissimo, capito? Però è distrutta, apparentemente è forte in realtà. Stamattina l'ho trovato sotto il coltello... Col coltello sotto il cuscino, per esempio. C'ho paura. Tu non li perdoneresti mai questi qua, no? Mai, guarda. Ciao, grazie Vladimir. Saluti. Ciao. Prego. Beh ragazzi, io quando ascolto la zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera. La zanzara. Devi impazzire, i proci si possono sposare alla facciaccia tua e di tutti i bigotti come te, impazzisci di rabbia, stronzo. 11 maggio 2016, ancora parliamo della Chiesa, veramente? Stiamo ancora parlando della Chiesa, cioè ne abbiamo veramente bisogno, dobbiamo veramente dargli credito, boh. Bisogna ignorarli ragazzi, ignorare istituzioni antiche e passate, basta, la Chiesa non esiste. Giuseppe, ma stavo pensando, ma un conto ascoltare Radio Banana Libera, ti fa anche due risate e Varin fa ridere già da solo, ma quel povero sfigato che si deve ascoltare Radio Maria tutti i giorni e Don Livio Fantomas lì, quanto lo dovete pagare di indennità, poveraccio, che sfiga, bah. Cruciani, sono a Belluno e sai chi c'è nelle frequenze di Radio 24? Don Livio Fanzaga, siamo al flop. Allora ragazzi, basta chiamarlo Donato da Varese. Io sono di Varese e mi vergogno. Che lì la mia de Varese. Traffico. La zanzara. Taglia morale, morale, morale, taglia morale. Noi tutti quei taxi in città, i froci e i negri li mandiamo coi pullman in periferia, in campagna, con le mucche le mandiamo, con le mucche. Poi facciamo una legge che macelliamo le mucche, i negri e i froci. E taglia morale, vuote taglia morale, morale, morale. Siamo al top. Questo è un genio assoluto. L'imitazione. L'imitazione del cavaliere Aurepa. Sì, cavaliere Aurepa. Vota Italia morale, morale, morale, taglia morale. Noi tutti quei taxi in città, i froci e i negri li mandiamo coi pullman in periferia, in campagna, con le mucche le mandiamo, con le mucche. Poi facciamo una legge che macelliamo le mucche, i negri e i froci. Italia morale, vota Italia morale, morale, morale. Siamo al top. We don't get fooled again. Florenzo dalla provincia di Latina, vai. Vai, Forlenzo. Forlenzo, ecco un altro come Ermenegildo. Forlenzo, ma no, vabbè, che vuol dire? Allora, Cruciani, ti telefono da Fondi, si può insultare gli ascoltatori. Basta, Forlenzo, ma dai. Allora, non si può insultare gli ascoltatori. Ma come si fa a chiamarsi Forlenzo? Ma che cazzo vuol dire? Tu ti chiami Giuseppe Cruciani, mi posso chiamare Forlenzo? Dai, Forlenzo, abbi pazienza, Forlenzo. Ma da dove viene Forlenzo? Da Fondi, in provincia di Latina, te l'ho già detto. Ma che c'entra Fondi? Da dove viene il nome Forlenzo, non Fondi? Allora era il cognome di un generale americano che ha liberato il papà di mio nonno. Ma poi guarda che hanno dato nome a me, siamo tre figli, a me mi hanno voluto chiamare Forlenzo. Però no, ma spiegami una cosa, era il nome perché il generale americano come si chiamava? Era il cognome, sai, quando si fanno queste cose, generale Forlenzo ha liberato ho capito, ma questo va benissimo che ha liberato, ma Forlenzo era il cognome, era italo americano. Era italo americano, sì. E poi, a te invece però era il cognome, invece a te hanno dato il nome. Questa è la cosa grave. A mio nonno hanno dato il nome, poi sono nati tre figli, io sono l'ultimo. Non sappiamo più come chiamarli, chiamiamo Forlenzo. Non si possono insultare. Ma non è un insulto, ma è una cosa pazzesca. Gli ascoltatori vanno trattati bene, non si possono insultare. Ma è una cosa così fantastica. Io ti devo dire una cosa: Forlenzo, ascolta, io mi chiamo Forlenzo e questo nome mi sta anche bene, sai perché? Perché nella vita faccio il cantante. Sì. Okay. Ma non sarà il nome di battesimo Forlenzo, però. Sì, il nome di battesimo. No, Forlenzo, certo. Vedi che sei d'accordo pure te, Forlenzo. Vabbè, allora Forlenzo è un po' strano, dai. Dai, comunque, vabbè. Ma è oggettivamente un po' strano, dopodiché io la difenderò sempre, però è un po' strano anche perché è strano, nipote di un compagno americano che ha liberato l'Italia dal nazifascismo, quindi figuriamoci, per me lei è... Vabbè. Lei meriterebbe di avere una rubrica fissa in questa trasmissione, peraltro, solo per il fatto che suo nonno ha liberato l'Italia dai nazifascisti. Ascoltatore. Va bene, allora allora io telefono per una cosa più precisa. Però se uno mi diceva che ha 47 anni ancora sta a casa, che prova a fare il cantante, il musicista, poi ho sentito ieri con una signora dicendo che secondo te fare il musicista non è un lavoro. No, ma non ho detto questo, dai, su, non diciamo stronzate. Ho detto una cosa molto semplice. Ho detto una cosa semplice. Se ti devi ridurre a 47 anni a farti mantenere da tuo padre 1500 euro al mese perché hai il sogno e l'ambizione di diventare il musicista, il regista. Dai, su, a un certo punto. No, è meglio che vai a fare il cameriere, è meglio che vai a fare il postino, è meglio che vai a fare, non lo so, qualsiasi cosa, altrettanto degno. Non è che devi fare l'artista a tutti i costi. Ma ieri hai fatto incazzare praticamente tutti i miei colleghi musicisti, tutti incazzati con Cruciani, è uno stronzo, una cosa. Ma non hanno capito un cazzo, è gente che va bene, va bene. Però voglio dire una cosa, il messaggio che è trapelato è un po' quello di dire no ragazzi, non facciamo i musicisti perché poi se uno fa il musicista non è un vero lavoro e proprio. Io voglio dire, non ho detto questo. Dai, no, hai detto che se tua figlia ti dice che vuole fare, sì, io ho detto secondo me, è meglio guarda, va a fare un altro lavoro e poi fallo come secondo hobby. Me sì. Ma tu che fai il giornalista, per dire, no? Non è anche questo un'ambizione, insomma, particolare? Allora Crucia, tu dovresti essere un esempio per dire a tutti i ragazzi che vogliono fare l'artista, il musicista, il cantante, il giornalista, uno che dice ragazzi, cioè, cacciamo le palle, andiamo avanti, porca miseria, non ci fanno contratti discografici, non ci cagano, dobbiamo andare solo nei talent, no, mettiamoci con la roba in mano. Io mi sono comprato delle casse, delle cose, vado in giro a fare serate, sono stato a Santo Tropez, sono stato dice... in Brasile, scusami, in Argentina. Ma chi è che dice il contrario? Chi è che dice il contrario? Una io certa quello difficoltà. Che dico. Ma chi io dice il contrario? Tu fai bene, tu non sei mantenuto? Sei mantenuto? No, e allora che vuoi? Io voglio benissimo, sto bene, scusa, sono la ti ragazza, pare, adesso mi sposo. Ma ti pare Forlenzo? Voglio... Forlenzo, oddio, sì. Faccio sempre un po' di fatica a pronunciare. Ma ti pare che io posso contestare il tuo lavoro? Ma chi se ne frega? Tu puoi fare quello che vuoi. Che me ne frega a me? Sto dicendo semplicemente che io, se mia figlia mi dice a 18 anni, 19, papà, voglio fare la musicista, io ho detto, guarda, amica mia, secondo me è meglio che figlia mia più che amica mia. Ma è un'espressione. Però è meglio che, dico, è meglio che forse pensi a cose un po' più concrete, diciamo, e poi se magari hai questa grande passione. No, mo mi fai incazzare però, mo mi incazzo, io penso però. Così. Ma che vuol dire cose più concrete? Cose che diciamo danno un risultato immediato, magari. Ma il risultato immediato ce l'hai anche se fai il musicista, il cantante, però devi avere le palle sotto. Parenzo sa che grandi cantanti sono stati anche avvocati, sono stati anche, capito, no? Ma giusto, Parenzo? Dire? Ma ci si può anche metterla tutta. Io sono l'esperienza vivente che non sarò miliardario, non sarò famoso, non sarò io non trovo che... nulla però di male. Giro il mondo facendo il musicista. Io non trovo nulla di male che se uno ha la disponibilità e la possibilità di mantenere un figlio nel suo sogno, certo, non sarà il massimo, però. Ma chi sei tu, Forlenzo Massarone? Ecco, Forlenzo Massaroni, sì, sono io, mi hai trovato su internet. No, mi hanno detto qua, mi hanno mandato una cosa, Forlenzo Massaroni che è stato a The Voice Italy serie... Sì, vabbè, quella è una storia vecchia, dai. Vabbè, sei tu però. E là mi hanno segato, mi hanno mandato via. Pensa che là io sono andato, mi sono presentato, invece di girarsi, hanno fatto la pernacchia. Vabbè, cioè, capito, ma quello succede, amico mio. Succede, però non mi sono arreso, perché? Perché la mia famiglia mi ha detto, vabbè, ma non è che mo esiste solo The Voice, non è che esiste solo quello. E dopo quell'esperienza lì, ti assicuro, sono stato... Sto dicendo... 6 mesi in Brasile a suonare, ma tu non sai quanto è bello vai in giro. Ma, ho capito, ma se viaggio, tu, ma figura, a me lo dici, non è quello. Tu, no. Io faccio conduttore radiofonico, che faccio ingegnere, cioè, faccio anch'io allora lavoro artistico. Essere d'esempio a dire, sì, ragazzi, che hanno un sogno. Io sto di dicendo una cantante. Cosa, ma se uno vuole fare il cantante ha questo sogno e non si fa mantenere a 47 anni dal padre, che secondo me dovrebbe guardarsi allo specchio e sputarsi. Uno che si fa mantenere, ma perché se ti fai mantenere da tuo padre a 1500 euro al mese a 47 anni sei un fallito. Ma abbi pazienza, ma che allora, non è... Si possono dare giudizi così. Forlenzo, io quello ho detto, figuriamoci. Sono d'accordo con te, Forlenzo, però non deve trapelare il messaggio che porca puttana fare il musicista. Ma chi lo dice? Io lo voglio dire, tutti quelli che ascoltano, che ragazzi, fare l'artista è possibile, anzi, ti dirò di più. Bravo. Io sto facendo tardi perché ho un evento stasera dove sto suonando, non ti dico nome, non ti dico niente, perché sennò farei sponsorizzazione a dove siamo, ma c'ho i musicisti dentro che mi aspettano, stasera dobbiamo suonare, guarda, cioè le serate ci sono, il lavoro c'è, ti stanno aspettando mentre tu parli alla Zanzara, te lo giuro, guarda, io ho detto, no, ragazzi, ma Forlenzo, la Zanzara è pane quotidiano, sì. Però Forlenzo, no, tu hai detto una cosa molto corretta, cioè hai detto che il lavoro c'è, bisogna procurarlo, bisogna andarlo a cercare, esattamente. Bravo, ti abbraccio, ciao Forlenzo. Mamma mia, Cruciani, voi matti. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Porca puttana, dopo 3 ore di organizzazione aziendale all'università abbiamo studiato il caso della The Bridge, che fa borse di pelle. Nel mio gruppo c'era una vegetariana, ha detto che siamo degli assassini di merda, e io gli ho detto che in campagna allevo con tanta cura le mie galline e poi me le mangio e non me ne frega un cazzo. Sandro da Rovigo, vai Sandro. Ciao Cruciani. Sì, volevo fare un'osservazione a quelli che fanno la VIP seduti. Sì. E volevo chiedere come fanno a farla quando ti alzi alla mattina, c'hai la vescica piena e ce l'hai in erezione. Come fanno a farla seduti? No, però scusami un attimo. Tecnico, un professore. Scusa, professor Sandro da Rovigo, che non sei il professor Bossi, quello che ogni tanto viene da noi. E in maniera molto chiara spiega, per esempio, molte persone sono interessate alla questione della introduzione ed estrazione, no? Come ha detto l'altra volta. Però allora Sandro, non ho capito che cosa dici. Tu fai la... alla mattina ce l'hai, ti alzi, ce l'hai la vescica piena, ce l'hai in erezione. Ma che vuol dire la vescica piena? La vescica piena può essere anche diversa dall'erezione. Ma ce l'hai in erezione, come fai a fare la pipì stando seduto? La fai palaria, Vabbè, amico mio, però sì, d'accordo, adesso è un caso particolare. Tu dici, uno ha la vescica, come dici tu, piena, cioè in erezione. Vai a fare la pipì. Di solito quando uno fa la pipì, la vescica non è in erezione. Falla seduti. Ma ho capito, ma è un caso particolare. Cioè, ho capito, Sandro. Ma tu la mattina, ho capito, quando ti alzi, c'è sempre la vescica piena? Sì. Ah, sempre? Sì, quasi sempre, sì. Cioè, sei fisso in erezione la mattina? La mattina quasi sempre. Ma sei malato? Quanti anni hai, scusa? No, sono malato, 60 anni, insomma. Ma a 60 anni ti alzi la mattina e quasi sempre c'hai il pisello in erezione? In erezione, sì. Vabbè, mio. E hai telefonato per condividere con noi questa vicenda, insomma. Beh, assolutamente, questione. Sì, quello ha fatto bene a telefonare, in maniera più assoluta. Ma io per quelli che la fanno seduti, come fanno a stare seduti? E tu dunque la fai in piedi? La attanaglia questo problema, diciamo. No, scusa, Sandro, allora, oggi del mondo. Anche in piedi però è difficile farlo nelle tue condizioni. No, c'è del buco, dai. Sì, d'accordo, ma devi un po' accompagnare. Sì, sì, no, ma... Devi aiutare, devi centrare. Devi centrare, devi stare anche a distanza giusta anche. Vabbè, le tecniche di Sandro da Rovigo, che la mattina si alza, ha il pisello sempre in erezione, il signor Sandro da Rovigo. E questo dice, amico mio, no, che capito, te, e dunque non riesce... La specie che voglia dire in diretta radiofonica una cosa di questo tipo, però, ma sono strano io, sai, non ti preoccupare. No, sono... ma non ho capito, ma perché perché ti stupisci che Sandro... Abbiamo di questi anni passati insieme che è parto dalla fine, è normale telefonare e dire che la mattina si ha il pisello in un certo modo e si fa la pipì come si fa e porsi delle domande su come si fa la pipì svegliandosi in un certo modo col pisello a campanile. Primo, sembra normale. È normale portare un maiale in studio e giustificare una coppia di persone che vanno a passeggio per Como con un maiale. Benissimo. Di origine vietnamita. Transessuali che poi mistress. L'elenco è sterminato. Non mi convincerai però che questo mondo che hai creato è normale. Non mi convincerai. No, non sto dicendo. No, ma non mi convincerai perché è un mondo che gira, è un mondo pazzesco. E poi lo strano bacchettone sono io. Sono io perché non racconto che la mattina mi sveglio qualcosa in quel modo, perché non ho maiali in casa, perché ecco. Non ci sono gang bang che vengono fatte quotidianamente, perché non ci sono. Questo ecco, io sono come dire, pazzo io, non preoccupatevi, sono pazzo io. Intanto, cari ragazzi, nella settimana in cui ci sono le unioni gay, il Parlamento pone fine a questa discussione. Ma soprattutto la svolta nella Chiesa con le donne, il Papa che apre al diaconato. Ma che apre, tutta una buffonata pure quindi, questa. Insomma, in questa settimana qui... Vito Mancuso, molto no, bene. Noi ci siamo chiesti, c'è un ospite già pronto, però ci siamo chiesti cosa capiscono gli italiani, come al solito, dalla parola eterosessuali, omosessuali, gay. Cioè, sanno veramente il significato di questa parola? Lo sanno quando noi parliamo sempre etero, gay, homo, capiscono qualcosa? Sembra di no. Sentite. Pronto? Sì, buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, IDS. Mi può dedicare cortesemente 30 secondi? Ma che ci devo dire io? Lei cosa ne pensa degli eterosessuali? Boh, non ne capisco, io sono in alfabeto, queste cose che mi dice a mia. Buonasera, con l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Se lei vede due eterosessuali che si baciano per strada, cosa prova? Provo un ribrezzo, sì, di una volgarità enorme. Quella è una malattia. Io, un bambino, non ce lo darei mai. È una cosa sconvolgente. Il bambino, quando vede due uomini che si baciano, un altro bambino lo può baciare come si baciano due uomini che dormono nello stesso letto. Diventano, per me sono maniaci. Maniaci sessuali proprio. Maniaci sessuali al 100%. Fino a ieri ho visto un film nella prostituzione. Allora un travestito si lascia andare meglio di una donna. E perché? Perché sono malati e ci viene più facile addocchiare un uomo, un ragazzo. Si può paragonare questi eterosessuali malati a degli animali? Peggio. Bestie. Perché hanno la furbità di fare quello che vogliono loro. E quella malattia che le porta a quel punto, no? Non si interessa se vanno a dormire con due uomini o con tre uomini. Una ragazza, se tu ti ci fai fidanzato, sta con te. Non va a fare delle orge. Quindi lei dice che gli eterosessuali amano le orge? Sì, senza dubbio. Come può essere che tutti questi ragazzi stanno diventando di un altro sesso? Ma che è la televisione? Che cos'è? Perché succede? Ci sono questi estetisti che fanno miracoli con la chirurgia plastica, però la chirurgia plastica deve essere in una malattia, ma no... Per cambiare sesso, per dice. Per cambiare sesso, come fa? Ma che stiamo scherzando? Quindi è tutto degradato? Tutto. Sempre gli etero erano, gli etero. Maurizio Ruggero, Sacrum Imperium, traballa, tutto traballa, il mondo traballa, il mondo è finito, siamo in presenza di una rivoluzione, i froci dominano, il Papa apre alle donne, incredibile. Maurizio, che succede? Effettivamente, diciamo che voi potete cantare vittoria, ma vi malediranno un giorno per tutta quanta la propaganda omosessualista che avete fatto. Ma... E poi prendete in giro quel poveretto lì che la pensa benissimo, solo le ingannate, sull'eterosessuale perché non conosce il verbo, cioè l'espressione greca etero, ma insomma. Ma no, ma se uno dice a uno eterosessuale, quello non capisce un caso. Ma sono, sì, ma sono termini moderni. Qua. Cioè il termine eterosessuale e omosessuale sono stati inventati nel tardo 800, la persona comune capisce. Normale, invertito, oppure se più colta, come dico io, sodomita. Ancora in giro è logico che le persone non abbiano altre categorie. Questo qua è ancora in giro. Cioè, secondo te, devono conoscere che è una persona d'oro. Cioè, secondo te, scusami Maurizio, bisognerebbe, bisognerebbe utilizzare altre parole, normali e invertiti. Beh, allora, intanto le forze rivoluzionarie, quelle stesse che hanno voluto a tutti i costi la sodomizzazione della società. Cosa la sodomizzazione? Anche oltre alle unioni sodomitiche, anche le femmine prete. Le forze rivoluzionarie cambiano i nomi alle cose. Ma io non lo credo, perché che male ti hanno fatto le donne prete, scusami. No, che non possono esserci, perché sarebbe come, allora, conferire il sacramento e l'ordine a un filo d'erba equivale, in questo caso, a questa cosa, perché... un filo d'erba, dico, per dire... Ma perché le donne sono un filo d'erba? Ma no, ma per dire che ha la stessa efficacia, cioè è zero. È invalido. Ma ancora in circolazione sacro. Questo qua, ma io gli ma dai, svegliati, lo sai anche tu benissimo questa cosa, che invalido l'ordine sacro conferito alle donne. Che poi, uno che pensa che le donne siano inferiori, che dice di fare un sacro. Ma perché pensi che le donne siano inferiori? Non ho capito, perché pensi questo? Lo dice Parenzo, io ho detto che sono diverse. La diversità... Ma diverse che vuol dire? Scusa, tu come le concepisci le donne a casa? Non devono lavorare, mi sembra, no, secondo te? Beh, intanto voglio dire, la loro natura è quella appunto degli affetti privati e non quella di fare le magistrate, le pugilesse, le soldatesse, le ministresse, che poi sono quelle ministresse che insieme col capo scout fanno i matrimoni sodomitici. Una meraviglia, un ritrovato che c'entra, scusi, che c'entra nei matrimoni sodomitici col capo scout? Non ho capito, che succede? Non hai capito, fai finta di non capire. Perché sai benissimo che la ministra Boschi, quella che appunto ha avuto a tutti i costi le unioni sodomitiche, e il capo scout è il suo capo. Quindi è evidente, no, che sono fuori posto. Ma non ho capito, ma nella sua concezione. Io non ho capito, perché le chiami unioni sodomitiche? Poi le donne, non c'è la sodomizzazione tra le donne? No, vabbè, se il termine sodomia sta a indicare quella che voi oggi chiamate omosessualità. Ma perché sodomia? Biblico. Ma la sodomia c'è anche tra gli eterosessuali, l'inchiappettamento c'è anche tra gli etero, amico mio. So che allora, tu non fai sesso, non hai mai fatto sesso in vita tua. Allora, intanto si chiama sodomia imperfetta, il linguaggio della moralistica cattolica. Ma al di là di questi aspetti, resta il fatto che invece l'accoppiamento fra persone dello stesso sesso è assolutamente contro natura, tira castighi da Dio, sarete maledetti voi. Tira castighi da Dio. Ma tu pensi veramente che esista sarete maledetti? Mi arriverà il giorno in cui la gente piangerà per i castighi. Ma tu... allora, maledetto Parenzo, maledetto Cruciani, maledetta Radio 24, maledetto Bergoglio quella volta che è andato a dire chi sono io per giudicare un gay. No, maledetto Galantino che fa finta di opporsi ai matrimoni omosessuali. Maledetto poi dice, Galantino, ma chi è questo? La fiducia è una sconfitta. Ma tirali una bella scomunica. Ma che scomunica, ma chi se ne frega? Cominciano a stare. Fermo là, Maurizio, fermo un attimo. Ecco, Titti, chi ci aspetta che c'è Titti da Roma? Titti. Ciao, buonasera. Anzi no, buonasera, ciao a tutti. Dimmi, quanti anni hai, Titti, dimmi. 28. 28 quasi, anni. Quasi 29. Dimmi, che vuoi, dimmi. Niente, io volevo spezzare un po' una lancia a favore a proposito di quello che aveva detto Amadeus alla Rai. Ah, Amadeus, il mitico Amadeus, sì. Esatto, salvate Amadeus. Io volevo in realtà spezzare una lancia a favore della minchia bianca, poi non siamo in fase. Cioè a favore della minchia bianca, scusi, no? Signora, voleva spezzare una lancia a favore della minchia bianca. Un altro elegantone è arrivato. Questa minchia nera che spesso è un po' sopravvalutata, diciamo. Capito? Non è il caso di Ruggero che non è esperto di queste cose, naturalmente. Sì. Però diciamo che c'è questo mito, no? If you go black, you never go back. Insomma, sì, tu hai provato tutti e due, neri e bianchi? Sì. E non ho tantissime esperienze in neri, perché insomma proprio per questo. Quanti neri hai provato, Titti? Non tantissime. Beh, non tantissime, a 28 anni hai provato un paio di neri, un paio. Questa signora è incredibile. Non tantissime. Però quello che volevo dire un paio di neri, no, questo. Ma dici quanti, allora, quanti neri hai provato? Un paio, no, non tantissimi, un paio. Che è una Ruggero, è una peccatrice questa qua? E si capisce, se non è sposata con uno È meglio che si sposi anziché andare con negri, bianchi e gialli. È meglio chiamare il gatto Silvestro per cacciare tizi, forse scappa. Guarda, questa battuta lo sai che in 28 anni non me l'aveva mai fatta nessuno. Originalissima questa battuta. Però Titi, no. Tu sei una peccatrice secondo Maurizio Ruggero, perché dovresti fare sesso praticamente solamente con il matrimonio. Vabbè, ma Ruggero vive in un altro mondo, nel mondo della... Vabbè, questo mondo che non esiste ovviamente. È un mondo che non esiste, solo... No, ma la cosa strana non è questa, cioè la cosa strana non è tanto questa, quanto la signora Titti... che decide, come dire, di raccontarci questa sua esperienza. No, io non volevo raccontarvi la mia esperienza, ma lei è fidanzata attualmente? Rassicurare, sì, che sì. Cosa dici? Sì. Io volevo, pensa quanto è contento il suo compagno maschile. Volevo rassicurare la popolazione maschile bianca, perché c'è proprio una differenza di fondo. Qual è la differenza di fondo? La differenza di fondo è che la lunghezza chiaramente insomma, conta, ed è ovvio, le dimensioni contano, sì. E questo è assodato, sì. Però c'è proprio una differenza in consistenza. Vabbè, ma dipende dalle persone, questo qua, Titti, adesso non è che c'è una statistica riguardo. La signora Titti, per chiudere, cioè, il quadro della settimana, la ventottenne Titti da Roma ci dice che la consistenza... No, ma immagina il povero fidanzato che ma magari non zanzana. È fidanzata, scusami, Titti. Vabbè, io mi sono sempre stata molto, molto trasparente. Ho detto, io non ho avuto troppa esperienza a riguardo, però magari con le mie amiche un po'... Vabbè, allora, ma qual è il succo della questione? Perché vuoi rivalutare quelli, cioè i bianchi? Perché i bianchi c'è una durezza maggiore. Che ma questa è una stronzata, bianchi. Ma questo dipende dalle persone, dai. Ma quello dipende. No. Ma la tua si è zittito Ruggero. Ruggero, hai capito questa differenza? Ma cosa posso dire in un dibattito in cui una chiama per raccontarci la differenza che c'è fra il membro sessuale maschile di razza bianca e di razza nera? Su questo, cioè, la capisco, guardi, una volta le ragazze, una ragazza faceva la domanda di matrimonio al padre. Vabbè, questa no, ci descrive però... i membri maschili, ma ci rendiamo conto che la razza è diventata bestia che siamo? Sì, no, ma su questo però io gli vorrei dar torto, però oggettivamente, cioè, qualcosa di strano c'è, vero, oggettivamente. Valente, persino nella tua mente distorta, no, alberga un elemento di verità, è incredibile. Lo dice anche il Concilio Vaticano II. Ma adesso non per quello. Elementi di verità, ma non salvano. Già che ti metti a posto. Scusa, ma Bergoglio andrebbe cacciato a pedate nel sedere, secondo te? Allora, se noi non avessimo una manica di preti, di vescovi, di cardinali, che pur di tenersi il posto, anziché andare nell'orecchio di Maurizio Ruggero o di altri a raccontare che disastri fa questo Bergoglio, avessero il coraggio di fare l'unica cosa seria che dovrebbero fare, cioè dichiarare che non può essere Papa uno così. Ah, non può essere Papa? È certo che non può essere Papa, perché non può essere Papa uno che non ha la fede cattolica. Su questo uno che dichiara tutto, che Dio non è cattolico, uno che va a farsi i giretti per gli immigrati a Lampedusa e a Lesbo, e fra l'altro questo anche il nome aiuta, visto quello che sta succedendo in Italia in questo momento. Titti, no? dimmi no. Quanti uomini sei stata fino a 28 anni? Quanti uomini? Questa è un'informazione che non posso divulgare. No, ma hai detto che sei stata con Duneri, Non lo so. Siccome ragazzi, non si ricorda cosa ha raccontato al suo fidanzato, dobbiamo chiudere. Ruggero, viva i froci, viva i froci, viva i froci. Simili con i simili, voi altri, vero? Fai una preghiera, finale per dire perdona per quello che abbiamo fatto. Una preghiera delle tue, in latino, poi chiudiamo, vai. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Va bene così? Sì, va bene, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.